Palla Spicchi di Dario Ricci. Quanto basket abbiamo questa sera da raccontarvi insieme a Guido Scotti in redazione e Roberto Scaltritti in regia. Beh, pensate, qua c'ho 7-8 televisori, ne vorrei avere anche di più, perché da un lato sto vedendo Brescia-Forlì di Lega 2, intanto ci abbiamo Emporio Armani-Milano-Montepaschi-Siena che è ancora in corso, più 4 per i toscani. Adesso andiamo subito al forum, alle 21. C'è la finale dell'Eurolega e andremo anche a Londra perché c'è questa Olympiacos Real Madrid che vale davvero la serata televisiva, e soprattutto anche per quelli che fortunatamente stanno alla O2 Arena a godersi lo spettacolo. Nel frattempo, poi alle 21:30 abbiamo anche un Golden State San Antonio Spurs che certo male non fa, insomma menù ricchissimo. Un risultato acquisito intanto è quello di Varese, la Cimberio che batte 81-72 l'Umana Venezia e si porta sul 2-0 nella serie, un 2-0 che soprattutto in questa seconda gara è stato sicuramente meno scontato di quanto il pronostico imponeva, di fatto, perché è la prima contro l'ottava della stagione regolare. Ma ve lo dicevo, volevamo andare subito al forum da Roberto Nardella per seguire questa gara 2 tra Emporio Armani Milano e Montepaschi Siena, con Siena chiamata a riscatto dopo il meno 24 di gara 1. Roberto, buonasera, un flash. Buonasera qui dal forum di Assago, ovviamente partita in corso anche per il rumore di sottofondo che magari potete sentire. 10-0 aperto della formazione mezzanina, che è stato nel migliore dei modi il quarto periodo, il terzo quarto si era chiuso sul 58-56 per Milano. Ora però di canestri l'Olimpia non ne ha ancora trovati, c'è Siena in zona d'attacco che cavalca il vantaggio con David Moss, con Siena che appunto, come dicevate, da solo deve provare a scattarsi dopo l'opaca gara 1. Ecco Roberto, ricordiamo un attimo il parziale. 58-64 per sera con Milano in zona d'attacco. Bene, bene, allora rimani là perché torniamo al forum fra poco per un altro flash. Intanto dicevamo del successo di Varese su Venezia. Stefano Valenti, ben ritrovato. Ciao, buonasera a voi. Beh, caro Stefano, successo che già chiude la serie, lo ricordiamo, anche questo primo turno si gioca al meglio delle 7 partite, quindi in teoria lo sappiamo, tutto può succedere, queste serie sono lunghe, bibì e bibò, però insomma un 2-0, seppur interno, cioè a difesa del proprio campo, da parte di Varese vuol dire tanto. Sì, guarda, forse la seconda partita è la partita più difficile, lo aveva già dimostrato ieri sera quello che era accaduto a Sassari, dove Cantù ovviamente non poteva replicare gara 1 ed è stata in partita, è stata in vantaggio, nonostante scelte anche coraggiose di Trinchieri, che non ha utilizzato per tutta la partita Cusino e Mancinelli. Stasera ecco che Venezia in gara 2 a Varese parte male, va sotto pesantemente sul campo della miglior squadra del campionato e poi però rimonta e gioca un secondo tempo, ma anche un secondo quarto di grandissimo coraggio. Poi però alla fine è stato Dušan Sakota il killer della Reier, e questo 2-0 conta molto secondo me nelle teste soprattutto della squadra di Varese, che come dire, dopo una stagione trionfale tutta al comando, ha visto per un attimo qualche spettro, quello che poi è il playoff, cioè dove veramente tante cose si azzerano, ma non tutte. Davvero questo Sakota, giocatore che ha spiccate qualità e anche dei limiti, però è un giocatore che gioca bene le partite che contano. Ricordo la semifinale di Coppa Italia contro Roma, dove col tiro da tre fece sconquassi. Anche questa volta 19 punti in 24 minuti, 4 su 7 nelle triple, e da quello che ci racconti, decisivo per il successo varesino. Insomma, un uomo chiave in questa post-season. Sono state decisive due giocate di Sakota, al di là delle triple da 8,5 metri che lui è capace di prendere con una naturalezza sconvolgente. Sono stati in realtà molto importanti due canestri, uno su una ottima palla di Dunston, perché su un cambio difensivo si era ritrovato Sakota ad avere un mismatch notevolissimo su Clark, e quindi bravo Dunston e bravo Sakota a trasformare, e un altro canestro molto importante su rimbalzo d'attacco. Quindi insomma, come dire, È vero, è uno grande specialista del tiro da tre punti, però le due giocate chiave, a mio giudizio, sono state quelle che non ti aspetti da Sakota, e cioè entrambe vicino a canestro. Poi, scorrendo ancora il tabellino, 12 punti per Banks, altrettanti per Mike Green, che pochi istanti fa ha twittato tutta la sua soddisfazione per aver difeso il fattore campo, che sicuramente non è poco, anche 8 assist e 6 perse per il regista varesino, 19 per Ebiere, con un 3 su 7 da 2, 3 su 5 da 3. Per quanto riguarda Venezia, 11 punti per Clark, 2 su 8 da 2, 1 su 4 da 3, quindi non eccezionale. L'ex Diawara, 17 punti con 2 su 3 nelle triple, ma appena il 3 su 10 da 2. E poi Jevic, 6 punti. Finora sta facendo un po' a fatica il polacco, no Stefano? Che pure doveva essere l'uomo chiave di questa serie per prolungare la post-season veneziana. Sì, è vero, anche se la stagione di Scherzi che è stata molto, molto ondivaga, non è un fattore difensivo, è un giocatore prettamente offensivo che sa far valere a volte la stazza in avvicinamento a canestro, a volte il tiro. Devo dire che Mazzon ha, a mio giudizio, un Diawara in un buon momento, un Clark un po' appannato, questa sera ha avuto ancora solidità da Rosselli, che è un giocatore bravo a fare tante cose sul campo, meno da Bulleri e Marconato, molto nervoso, due falli tecnici stasera. Io in 20 anni di Marconato in Serie A non l'ho mai visto veramente così nervoso per due fischi obiettivamente discutibili. Però Venezia ha mostrato vitalità, ha mostrato carattere, ha mostrato un'alternanza di difese, una zona che ha messo in difficoltà a Varese, e quindi credo che sul suo campo potrà confermare i meriti che l'hanno portata ad essere una delle 8 dei playoff. C'è un dato così curioso che vorrei evidenziare, cioè questa pazzesca corsa parallela tra Sassari e Varese, che sono state prima e seconda in campionato. Quando si sono affrontate è finita 1 pari e una vittoria di un punto per Sassari, vittoria di un punto di Varese, e oggi si trovano 2-0 dopo aver entrambe dominato gara 1 e entrambe sofferto in gara 2. Quindi chissà che questo clamoroso equilibrio non ce lo dovessimo mai ritrovare anche in finale. Non è che in finale la sbrighiamo ai rigori, qua non vale. Stefano, resta là perché voglio parlare anche della finale d'Eurolega che è in arrivo, però intanto coinvolgo il nostro Carmelo Presti Simone. Carmelo, ci abbiamo un minutino per raccontare una storia di Lega 2 interessante, perché ritorna a Napoli, potrebbe essere la buona notizia, però sparisce la Fortitudo. Com'è? Ciao Carmelo. Ciao Dario, esattamente così. Venerdì c'è stato il comunicato ufficiale congiunto della Bianco-Blu Bologna e della SD Napoli Basket, questa è la dicitura del nuovo club napoletano, e Napoli rileva il titolo della Bianco-Blu Bologna in Lega 2 Gold, si chiamerà così la categoria, diciamo così, la serie B del basket l'anno prossimo. Lega 2 che tornerà ad essere, che sarà dilettantistica, questa per una questione assolutamente di costi, e praticamente Napoli ha rilevato, sta perfezionando l'acquisto del titolo per una cifra che si aggira intorno ai 300.000 euro. Il direttore, uno dei dirigenti, Mirenghi, è già stato negli Stati Uniti a Portsmouth in Virginia per seguire i migliori talenti americani e per prendere appunto contatto con loro e per eventualmente ingaggiarli per l'anno prossimo. Ci sono anche delle suggestioni di mercato assolutamente interessanti in Italia, e sono due ex come Mason Rocca, che gioca con la Virtus Bologna, e Valerio Spinelli in forza all'Avellino, alla Sidigas Avellino, e che proprio con Napoli hanno vinto la Coppa Italia nel 2006. Quindi speriamo, insomma, che questa sia tutta buona per Napoli, dopo che, ricordiamo, ci sono stati in 5 anni 4 sì. fallimenti. Infatti, non ricordiamoli tutti, Carmelo, se no finisce la puntata. Peccato che però, insomma, tornando Napoli, però se scompaia la Fortitudo. Palla spicchi. Allora, ripartiamo subito con gli aggiornamenti dai campi dei playoff di Lega 2, gara 1 dei quarti, al meglio delle 5 partite. Ieri Pistoia ha battuto Scafati 106-85, oggi Casale Monferrato batte Verona 82-72, Brescia avanti su Forlì 40-29, vantaggio esterno fuori casa per Trento, Barcellona 14-8, ma qui davvero siamo proprio ai primissimi minuti di gioco. Tornerei per un flash da Roberto Nardella, Emporio Armani Milano, Montepaschi Siena al Forum. Roberto, il flash ha un nome e cognome con il Daniel Hackett, suoi gli ultimi 4 punti tutti firmati Siena ovviamente, più 6 per la formazione di coach Luca Maggi, quando qui mancano al Forum ormai 100 secondi alla fine della partita, ma Scaiolo costretto a chiamare il timeout, quindi Milano ovviamente rimetterà la palla per cercare di provare a riaprire questa partita. Allora resta là Roberto, perché ritorniamo subito da te. Intanto però Stefano Valenti, alle 21 ti immagino davanti alla TV, perché c'è questa partitina Olympiacos Real Madrid, e quindi a te anche l'onere di anticiparci come va a finire. Beh, insomma, mica poco. La mezz'ora, intanto, il quarto d'ora di vantaggio, ce lo dobbiamo, no? Dai, famoso quarto d'ora accademico a rovescio. Sì. diciamo che possiamo cominciare da come inizia, cioè con l'Olympiacos che cerca di fare quel che è riuscito l'ultima volta al Maccabi, cioè il back-to-back in Eurolega, e secondo me ha le potenzialità per farlo. Non era scritto che l'Olympiacos fosse favorita anche quest'anno, anche perché c'era stato un cambio importante in panchina, e insomma, come dire, se lo è meritato sul campo, se lo è meritato battendo forse la favorita, cioè il CSKA in semifinale. E adesso trovi il Real, che è la squadra senza dubbio più affamata d'Europa, che è cresciuta molto negli anni, credo che sia cresciuta anche grazie al passaggio di Ettore Messina, seppur si sia chiusi in maniera infruttuosa, però già nell'anno in cui Messina lasciò la panchina del Real Madrid e poi Real conquistò la Final Four di Eurolega con Lele Molin in panchina, ed è una squadra di talento, è una squadra che sa far canestro, è una squadra che ieri è stata capace di ribaltare una partita difficile col Barcellona, e sappiamo che il classico, come viene nominato, ha tante implicazioni che magari esulano dalla semplice, tra virgolette, sì, però, semifinale di Eurolega. Stefano, è anche partita vero. Bella, tutta da vedere, visto che mi hai coinvolto, io sono per l'Olympiacos, ma li sbaglio tutti. Ah, no, figura di chi ti sente, lo ripetiamo spesso, ci abbiamo fatto anche una rubrica sui miei pronostici sbagliati. Ah, qualcuno è diventato pure milionario. A parte scherzi, va detto che l'Olympiacos è squadra che, se ha una dote tra le tante, è proprio quello di saper far giocare male chi il basket piacevole invece lo ha nel proprio DNA, no? E quindi quella sporca dozzina in maglia bianco-rossa, non sarebbe clamoroso se facesse anche un altro scherzetto a questo Real, che forse è stata la squadra più regolare ad alto livello dell'Eurolega. Sì, è vero, io sono stato testimone oculare a Madrid di Real CSKA, perché era una partita che per certi versi poteva essere un antipasto di questa Final Four, ed è stata una squadra continua, una squadra che ha mostrato veramente una bella pallacanestro e che ha certificato anche un Pablo Laso, che forse non aveva credito tra i grandissimi d'Europa in panchina, invece ha dimostrato di saper leggere bene le situazioni. Una squadra che sicuramente si è giovata di un grande Rudy, ma io direi che c'è veramente una crescita complessiva di questo gruppo, non ultimo Mirotic, che è uno dei migliori giocatori d'Europa, prima lo era tra i giovani, ormai giovane quasi non va più considerato. No, ormai è assolutamente una realtà. Intanto 68-62 per Siena a Milano, quando mancano ancora, ecco, anzi no, torniamo proprio da Roberto Nardella, che sicuramente ne sa più di me in questo momento. Roberto, aggiornamenti. Ancora qui al Forum, 4 secondi alla fine, Elson in lunetta per cercare di fare 3-3 e impattare la partita, portare all'overtime. Il disastro di Todd Fretz, che è andato a commettere un fallo a 8 metri dal canestro. Elson ha buttato la palla per aria, è stato chiamato in lunetta dagli arbitri, segna il primo tiro libero, segna anche il secondo, dopo mancheranno 4 secondi alla fine, ora però deve realizzare il terzo per cercare di provare a portare la partita all'overtime, anche se Siena ha ancora un timeout da spendere. Rimaniamo qui al Forum del Stego per il terzo tiro libero di Malik, 3-3, time out obbligatorio di Fosse Luca Maggi, e Milano che praticamente in 5 secondi è riuscita a recuperare quelli che erano 6 punti di scarto rispetto al collegamento precedente. Allora restiamo da te Roberto, restiamo da te perché seguiamo questi ultimi 5 secondi che sono la chiave della partita, perché se Siena riuscisse a mettere in piedi un'azione e un tiro potrebbe decidersi. Ecco, finora quindi Siena che ha sprecato proprio in modo clamoroso l'1-1 che era servito su un piatto d'argento, Roberto. Pronto Roberto? Sì, scusatemi, ovviamente certo. Sente un gran trambuso, spero voi vi possiate sentire senza problemi. Decisamente Siena ha sprecato la possibilità di portarsi sull'1-1, Banchi ha chiamato il time out, dopo mancheranno 4 secondi e spicciola la fine. Milano però ha commesso fino a questo momento solo 3 falli, dunque avrà la possibilità di andarne a commettere ancora prima di esaurire il buono. Ci vedremo se la partita si risolverà con un jolly da parte di Siena oppure se si prolungherà all'overtime con Thomas Ress, che francamente dopo aver giocato una gara pressoché perfetta ha fatto un errore veramente ingenuo. Incredibile, l'uomo forse più esperto, no? Che tante volte quest'anno, soprattutto nella prima parte della stagione e soprattutto prima dell'infortunio al polpaccio che lo ha limitato, diciamo, da dopo la Coppa Italia fino ad oggi. Scusami, vai. Prendo la linea, ma ancora 4 secondi, andiamo con la zona diretta. La rimessa con la palla nelle mani, Paolo Brown prova a buttare dentro, poi lo scarico per Calderi, si vede che è sbagliato l'urlo del forum, corre la partita che va all'overtime sul 60 pari Milano, recupera dal 62 al 68 quando mancava 1:40 alla fine, gara che va dunque al supplementare. Beh, straordinario, grande Roberto Nardella che ci ha raccontato in diretta questo momento decisivo di questa sfida. E allora si va all'overtime di gara 2 tra Milano e Siena sul 70 pari. Beh, Stefano Valenti, sei ancora con noi? Beh, incredibile questo finale, Stefano. Sì, questo quasi finale. Esatto, chissà che non abbiamo vissuto in diretta uno dei momenti forse chiave della serie, perché è chiaro che tornare a Siena sull'1-1 rappresenterebbe uno stimolo fortissimo per la Montepaschi che giocherebbe le due partite in casa da campione d'Italia, non ho alcun dubbio. E invece Milano evidentemente è una squadra che negli ultimi tempi ha saputo mettere qualcosa dentro e questo gli ha permesso di rimontare una situazione psicologica difficile. E credo siamo tutti d'accordo che forse un mese e mezzo fa nessuno si sarebbe aspettata una Milano così. Guardando già al supplementare c'è una situazione falli abbastanza complessa per Siena, che ha Kangur, Moss e Ress con 4 falli, di là c'è Ayrton con 4 e anche solo Ayrton con 4 e Marcus Green, quindi insomma forse sul piano emotivo e anche proprio quello della questione falli potrebbe esserci un piccolo vantaggio per Milano. Piccolo, grande vantaggio, e come giustamente hai detto bene, un mese e mezzo fa, 2 mesi e mezzo fa, una Milano così tosta non ce la saremmo davvero aspettate. Grazie a Stefano Valenti per essere stato con noi anche oggi. Vi ricordo domani l'appuntamento con Carlo Genta alle 14, tutti convocati, e anche di basket ovviamente si parlerà. Un grazie a Guido Scotti in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Io rimango ancora un po' a farvi compagnia con tutte le notizie dello sport di questa domenica sera qui su Radio 24.